Parenti stretti a Radio 24 di Federico Taddia. Suonano le campane e le campanelle di Radio 24, eccoci qua, 7 minuti dopo le 11, buon Natale da Federico Taddia e da tutta la squadra di Radio 24, con me Peter Bescapè, oggi alla regia Paola Greco invece, che giocherà con le vostre telefonate. Questo è Parenti stretti a Radio 24, una puntata speciale, una puntata natalizia, una puntata tutta per voi in questo Natale, sì, l'abbiamo detto, più strano di sempre, questo Natale che ha sbriciolato, cambiato, trasformato riti e tradizioni, questo Natale che è un Natale anche di distanze, no? Perché non ci siamo potuti riavvicinare con molti dei nostri parenti. Beh, abbiamo deciso di aprire i nostri microfoni per un'ora intera proprio per darvi la possibilità di fare gli auguri a chi questo Natale non potete fare gli auguri di persona. Quindi Radio 24 c'è sempre stata durante questa pandemia, c'è anche oggi, perché la grande famiglia degli ascoltatori, appunto, la vogliamo riavvicinare grazie ai vostri auguri. Come fare? Facilissimo, c'è un numero verde, l'800 24 0024, chiamate e ci dite a chi volete fare gli auguri e noi siamo qui per amplificarli. Quindi 800 24 0024, tutto ciò anche via SMS, WhatsApp, il numero lo conoscete, è il numero di Radio 24, 349 238 6666. Parenti stretti, Radio 24, per dirci semplicemente buone feste. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Mattinata di musica, ho chiesto al nostro Luigi Speciale di selezionare un po' di brani natalizi. Ha iniziato proprio con Feliz Navidad nei suoi 50 anni, è un anniversario importante anche per questa canzone che insomma ben conosciamo. 800 24 0024, numero verde per i vostri auguri a richiesta, per le vostre chiamate, per appunto dire buon Natale, buone feste a chi quest'anno non potete toccare di persona. Iniziamo con la prima chiamata e arriva da Tenerife addirittura, c'è con noi Andrea. Ciao Andrea. Pronto? Sì, ciao. Ciao, buon Natale a te. Buongiorno. Intanto. Buongiorno. E buon Natale a tutti. Allora, tra un attimo ti chiederò che cosa ci fai a Tenerife, perché ho già visto il tasso di invidia crescere nelle persone qui attorno a me. Andrea, partiamo dagli auguri a chi vuoi farli in questa bella mattinata. Certo, dato appunto che sono a Tenerife, ci tenevo a fare gli auguri a tutta la mia famiglia, in particolare appunto perché sono un po' lontano quest'anno e quindi non riuscivo a vedere nessuno della mia famiglia e neanche dei miei amici. Ascolta, cosa ci fai a Tenerife? Cioè, sei a Tenerife però, perché è obbligato ad essere a Tenerife o per scelta? No, per scelta. Allora, abito a Barcellona, vivo a Barcellona da 3 anni ormai e sono sempre riuscito a tornare a casa per Natale per passare le feste con la mia famiglia. Quest'anno a causa delle restrizioni non mi era possibile, dato dalle restrizioni che c'erano in Catalogna, quelle che c'erano in Italia, c'era un po' di incompatibilità negli spostamenti. Certo. E andare nelle Canarie invece risultava un po' più facile e quindi niente, ho fatto questa decisione, passare il Natale un po' più al caldo, un po' più lontano, però come piano B diciamo che mi è andato abbastanza bene, sono abbastanza fortunato direi. Quindi insomma passerai il Natale sulla tavola da surf, è questo che ci stai dicendo? Sì. Esattamente, quindi esattamente. Parenti stretti anche appunto oltre confine con, come ti ripeto, questa invidia crescente nei tuoi confronti. Grazie davvero Andrea, buone feste a te e a tutta la tua famiglia, ciao. Wow. When I'm feeling blue and when I'm feeling low, then I start to think about the happiest man I know. He doesn't mind the snow and he doesn't mind the rain, but all December you will hear him at your window pane, a-singing again and again and again and again and again and again. Christmas is a-coming and the bells begin to ring, the holly's in the window and the birds begin to sing. Now don't take time to worry and don't take time to fret, and the more you give at Christmas time, the more you'll get. God bless you, gentlemen, God bless you, and the more you give at Christmas time, the more you'll get. Parenti stretti, 800 24 00 24, il numero verde per fare gli auguri a chi volete voi, 349 238 6666, per farlo via sms, via whatsapp. Andiamo a Roma e andiamo da Adriana. Ciao Adriana, buon Natale. Grazie, buon Natale a tutti. Senta, io volevo mandare il mio messaggio di auguri a tutta la mia famiglia che è giù al paesello, in questo paesello piccolo che si chiama Brasiliano, quindi a mia madre, a mio padre fuggente che per tenerlo a casa sarà complesso, quindi già lo so, e soprattutto a tutti i miei nipoti. Volevo rincuorarli e soprattutto rassicurarli che i soldini arriveranno. È vero, brava, perché... quindi la bustina da parte ce l'ho, quindi a Narella, insomma, a Vincenzino, voglio Elisabetta e tutti gli altri, un bacione. No, mi sembra un augurio rassicurante, perché in effetti sì, c'è anche l'aspetto dei regali che fanno sì, parte perché della loro tradizione. Mi attendono soprattutto sempre soprattutto per questo, perché sanno che sono una fonte preziosa e quindi ci tengo a non deluderli, quindi li rassicuro per questo tutti quanti, veramente. Grazie. E va bene così. Ah, e poi un complimento a tutti voi di Radio 24, alla Deborah, a voi, a Cruciani, a Parenzo, a tutti quanti, un bacione. Perfetto. Va bene. Ciao Adriana, grazie, buone grazie. Feste a te, a tutta auguroni, la tua famiglia. Auguroni, grazie. Ciao, ciao. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. Boughs of holly rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Stavo pensando appunto alla chiamata di Adriana, che giustamente ha rassicurato sui regali, no? Perché? Perché in questo Natale si cerca poi di tenere vive i riti, le tradizioni, sì, che vengono trasformati, vengono cambiati, però poi ci si aggrappa anche alla creatività. 800 24 0024 per i vostri auguri a richiesta oggi con Parenti Stretti a Radio 24. Ma oltre agli auguri vi racconteremo anche un po' di storie di chi per l'appunto sta usando, userà la creatività per dare una parvenza di un Natale normale, o comunque, visto che è un Natale normale, non è cercare di renderlo piacevole, divertente, simile diciamo al Natale, così come lo conosciamo. Quindi vi racconteremo alcune di queste storie e iniziamo con la TAD, che non è taddia a distanza, ma è la tombola a distanza. È stata ideata a Napoli, da un artista, da uno che le idee le sforna in continuazione. Diamo il benvenuto ad Angelo Picone. Ciao Angelo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buon Natale, grazie. Buon Natale. Grazie a te. Buon Natale. Allora, Angelo, hai inventato questa tombola a distanza, di cosa si tratta? È un modo per far incontrare le famiglie, i parenti, gli amici, anche i colleghi a distanza con il pretesto di gioco della tombola, in maniera che tale da potersi fare gli auguri, vedersi in questi tempi dove purtroppo la vicinanza ci è impedita. Funziona in maniera molto semplice: siamo su una piattaforma di videochiamata, noi siamo in uno studio televisivo, io e gli artisti, io che ci tiro la tombola, dico i significati della smorfia, eccetera eccetera, e da casa varie case collegate in tutta Italia, anche a parte, in ogni parte del mondo, si connettono con noi, giocano con noi, si guardano tra di loro, raccontiamo un poco tante altre belle cose riguardo alla tombola, il periodo di Natale, facciamo interventi musicali, è una cosa molto bella. Insomma, anche questa fa parte di parenti stretti, no? Quello che di solito si fa con i parenti, appunto, attorno a un tavolo che giocherà a tombola. Sì. Voi vi siete ideati questa cosa per allargarla un po'. Panarosolidale.it è il sito da dove poter accedere a questa tombola virtuale, che in verità è una tombola reale, ma a distanza. So che avete tolto il numero 90, vero? Sì, abbiamo tolto il numero 90, che nella smorfia è la paura. E quindi praticamente volevamo fare questo atto artistico un po' particolare, cioè di buon augurio, di buon auspicio, togliere questa paura da mezzo che purtroppo sta attanagliando gli animi delle persone. E quindi abbiamo fatto questa azione simbolica praticamente. Allora, ricordiamo che ci si può iscrivere via Facebook o via Instagram, ricordo ancora panarosolidale.it il sito, e l'avete già sperimentata in questi giorni? O assolutamente è... sì, abbiamo fatto già un paio di TAD, una famiglia molto vasta si è incontrata tra Toscana, Umbria, Sicilia, il giorno 19, mentre il giorno 21 ci è toccata un'azienda addirittura, con 180 collegamenti praticamente, tutti i dipendenti che hanno ricevuto un pacco dall'azienda a casa, e dentro c'era la cartella con la quale hanno giocato poi quella sera con noi. È stato molto bello, veramente. È un modo, perché contrariamente alle altre tombole online, tu non giochi con una macchina, stai giocando veramente con le persone, stai insieme alle persone. In realtà è strano, ma è molto umana. Grazie davvero, grazie davvero Angelo, e complimenti per questa iniziativa che fa molto. Complimenti per la trasmissione, auguri a tutti i radioascoltatori, buon Natale, sereno, di salute soprattutto. Buon Natale a voi, ciao Angelo, ciao ciao, grazie. Con le vostre telefonate, i vostri auguri a richiesta in questa mattina di Natale così diversa, cerchiamo di, appunto, trasformare tutta la famiglia di Radio 24 in una grande famiglia allargata, ma appunto di parenti stretti, grazie a Radio 24, grazie alla possibilità che vi diamo di scambiarvi gli auguri, di dire buon Natale a chi non potete dirlo di persona in questo Natale 2020. Siamo a Milano con Fabio. Ciao Fabio, buon Natale. Ciao, buongiorno, buon Natale a tutti. Che bella voce, bella sveglia. Allora, a chi vuoi fare gli auguri oggi? Beh, oggi, vabbè, la mia famiglia li ho già fatti perché ce li ho qui con me. Voglio fare gli auguri alla mia mamma e alla mia sorellina, che sono a 1000 chilometri di distanza, non ho potuto raggiungerli a Matera. Io sono di quelle parti lì e quindi li stringo forte, insomma. Che poi sono state No, scelte difficili, no? Ponderatissime, vado, non vado. Come l'hai vissuta appunto questa decisione? Ma guarda, io normalmente vivendo a Milano, giù dalla mia mamma scendo due volte l'anno, d'estate e a Natale. Quest'estate sono sceso, questo Natale dovevamo scendere, però che vuoi, alla fine dovendo andare in macchina, non potendo prendere aerei perché si sa partivano o non partivano, farmi tutta una tirata per stare sei giorni mi sembrava veramente veramente dura. In più la mia mamma comunque è oltre 70 anni, un po' di paura ad avere milanesi in casa, un po' ce l'aveva, che vuoi. No, ma insomma dai, credo sia il regalo più bello, ahimè, sembra paradossale dirlo, no? Ma è stato veramente un regalo prezioso quello di non andare a trovare mamma e papà in molti casi, perché era... No, anche perché conosco cugini che sono andati e gli tiro le orecchie perché poi vedo le foto che postano. Non si fa. Grazie davvero Fabio, grazie per essere stato con noi. Buon Natale a tutta la grazie tua famiglia. Grazie a voi, buon Natale, ciao. Vi ricordo il numero verde, l'800240024, se volete chiamare in diretta per i vostri auguri, oppure 349-238-6666 se volete scriverci via SMS o via WhatsApp. Andiamo a Roma, andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buon Natale. Buon Natale a tutti quanti voi. Grazie, salve. Ciao. Gli auguri, la mia famiglia ce l'ho qua e quindi glieli faccio direttamente, però volevo farla a tutta l'organizzazione della sanità, perché si stava mettendo male per noi il Natale, perché ieri il 23 pomeriggio alle 4:30 mia figlia è risultata essere positiva al Covid, ha fatto il molecolare e neanche dopo 24 ore, quindi loro ci hanno detto 48-72 ore, neanche dopo 24 ore, cioè ieri sera alle 7:30 è arrivato il risultato del molecolare che era negativo, e quindi è certamente un bel Natale per noi. E volevo ringraziare tutta l'organizzazione che poi alla fine in qualche modo c'è. Eh sì, una doppia bella notizia, bella, no? Sì, sì, è diventato un Natale un po' mesto, lo era per quello che succede a tutti quanti, era diventato un brutto Natale perché insomma cominciare il Natale proprio con un Covid positivo, invece prima che scoccasse diciamo il cenone è ridiventato un bellissimo Natale, e quindi auguri a tutti quanti loro perché se lo meritano. Grazie davvero Antonio, insomma amplifichiamo questi auguri veramente a tutto il personale medico, a tutto il personale sanitario, a tutte le persone che in questo momento stanno lavorando e lo stanno facendo per la collettività. Ciao Antonio, buon Natale, buona giornata. Hang all the mistletoe, I'm gonna get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. The fireside is blazing bright. Whoa, we're caroling through the night. Whoa, this Christmas a very special Christmas from me. Whoa, whoa, whoa, whoa. Ha. Let's go. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. And as I look around, your eyes are shining the town you do. This Christmas, the fireside is blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas, we parenti stretti oltre confine. Chi appunto è? Non è potuto rientrare, e abbiamo letto e seguito in questi giorni, in queste ore, perché siamo veramente sulla stretta attualità, quello che è accaduto, quello che sta accadendo in Inghilterra. Andiamo proprio a Londra con Ambra. Ciao Ambra, buon Natale. Ciao, buon Natale. È un buon Natale? Ma sì, potrebbe essere peggio, no? C'è il sole a Londra, cosa posso dire? Questo mi sembra un dono molto, molto particolare. Esatto. Allora, Ambra, hai stravolto i tuoi programmi, però sei dovuta rimanere lì? Sì, non era Natale che pensavo di passare, fino a sabato pensavo di essere insomma con la volata ristretta a casa con la mamma, papà, mia sorella, invece sono qua. una decisione all'ultimo minuto, come sapete è tutto cambiato da sabato pomeriggio, stavo facendo le valigie in salotto, accendo la TV perché c'è stato un comunicato speciale e viene detto: state facendo le valigie, fermatevi. Così, meno di 24 ore dal volo, e poi i voli sono stati anche cancellati, quindi nemmeno scappare se potuto. Amra, vuoi cogliere l'occasione per fare gli auguri a distanza? A chi? Sì, a tutta la mia famiglia, ma in particolare alla mia nonna, che si chiama Gentile e che non vedo l'ora di riabbracciare, perché è il primo Natale che passo senza i suoi manicaretti e abbracciarla, insomma, quindi... alla mia famiglia e mia nonna Gentile. E amplifichiamo e veramente facciamo nostri questi tuoi auguri, soprattutto a nonna Gentile, cioè manicaretti, questo ci ha incuriosito molto. E che sia davvero un buon Natale, festoso e solare lì nella Londra. Ciao Amra, grazie mille anche a voi. Ciao. Andiamo a Padova invece da Adriana. Ciao Adriana, buon Natale. Attenzione Adriana, vediamo se Adriana, sì. Eccola lì, sì. Ciao. Ci senti? Sì, ciao a tutti, complimenti per la trasmissione, innanzitutto che io seguo da anni ormai, mi piace un sacco, e niente, io auguro buon Natale soprattutto a Marcello, che ora abita a Castelfranco da poco tempo, mio figlio, spero che sia contento, e buon Natale a Loris, e a tutta la mia famiglia, tutto qui, e a voi chiaramente. Grazie davvero Adriana, grazie, che auguri che ricambiamo di cuore. Hai capito benissimo lo spirito di parenti stretti, esserci comunque in questa mattina di Natale. Ciao Adriana, buone feste. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, vi ricordo ancora il numero verde 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta oppure via sms 349 238 6666 per dirci semplicemente buone feste. Parenti stretti a Radio 24. Federico Taddia in diretta con Parenti Stretti a Radio 24. I vostri messaggi ne stanno arrivando tantissimi. Adesso stavo leggendo: auguri ai nostri amori a Berlino, Carlo, Yume, Yunkum, da mamma e papà. Non si firmano, ma chi ha ricevuto gli auguri sa bene chi sono questa mamma e questo papà. 800 24 00 24 se volete chiamarci, 349 238 6666 invece se volete scriverci. Andiamo a Verona, lo facciamo con Leonardo. Ciao Leonardo, buon Natale. Ciao Federico, buon Natale a te. Tu hai intervistato mia figlia Eleonora, la scacchista, 20 anni fa qui a Verona, ti ricordi? Ma sì, ma che viaggio, che era una vera regina degli scacchi 20 anni fa, e spero che... E ora vive a Milano, lavora a Milano perché ha 32 anni, e niente, insomma, siamo qui, mi fa piacere risentirti, Eleonora sta bene... Ha rinviato due volte il matrimonio già quest'anno, speriamo che l'anno prossimo vada meglio. Ed è a lei che vuoi fare gli auguri, Leonardo? Certamente a lei e a mio futuro genero, evidentemente, Gianluca. Eh sì, insomma, questa cosa del matrimonio variato due volte, insomma, che avete dovuto variare la data, immagino sia stato a settembre e adesso a 20 di dicembre, era il secondo tentativo. Speriamo nel terzo, ok? Gli scacchisti sono abituati ad avere pazienza. Bravo, bravo, bravo. Ciao Leonardo, grazie davvero, è stato veramente un piacere. Ciao, ciao. Ciao, ti saluto, ciao, ciao. Ciao. Tra l'altro, insomma, è stato un bel incontro, perché sì, l'avevamo intervistata tra l'altro proprio a Papa Pero, quindi è sempre Radio 24 che segue, che fa crescere i suoi ascoltatori. Siamo in autostrada con Danilo. Ciao Danilo, buona domenica, buon Natale. Buon Natale, non è buona domenica, buon Natale, ciao. Allora, volevo fare mandare un messaggio e salutare tutte le persone che purtroppo oggi sono da sole. E quindi faccio un augurio più che altro a queste persone che in questo momento sono da sole, e poi un augurio di cuore a tutti quanti, che magari questa esperienza serve a capire quali sono le cose veramente importanti della vita. Ecco, questo è l'augurio che voglio fare a tutti. È bellissimo, Danilo, no? Prendersi un tempo per pensare, perché è questa esperienza negativa che porti qualcosa di positivo. Lo speriamo, facciamo nostro il tuo augurio. Ciao Danilo, buona giornata. Ciao, grazie mille. Ciao ciao, ciao, ciao, ciao. Nicola, dalla provincia di Milano. Ciao Nicola. Pronto? Eccolo lì. Ciao, sì. Sei tu. Ciao, buon Natale. Allora, Nicola. Buon Natale anche a voi, a tutta la redazione, chiaramente. Io volevo fare gli auguri un po' particolari a dei parenti, diciamo, possiamo dire, acquisiti. Io li tengo acquisiti, che sono purtroppo i reclusi carcerati, che vivono nelle case circondariali del paese. Quindi dico, ragazzi, fatevi forza, non siete da soli, cercate di reagire e vedrete che la vostra situazione sicuramente migliorerà. Grazie davvero Nicola. Insomma, lì dove la distanza, no? Non è solo data da un virus, ma è data proprio da delle pareti, da dei chilometri che allontanano dalla famiglia, da una vita appunto da recluso. Quindi il tuo augurio è veramente bello e profondo, e lo facciamo nostro. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, si può rincontrare a Natale, ma ci sono persone che da mesi stanno vivendo la sofferenza di non poter toccare, abbracciare i loro parenti. E stiamo parlando delle residenze per anziani, dove appunto tantissime nonne, tantissimi nonni sono lì, e per la loro sicurezza nipoti, figli non possono andare, non sono potuti andare a Natale, ma non possono andare da settimane. Anche lì ci si è inventato di tutto, videochiamate, lettere, mail, insomma, tanti modi per far sentire la propria vicinanza, tanti modi per potersi vedere in faccia, ma non è la stessa cosa, lo sappiamo, e non può essere la stessa cosa a Natale. Però davvero anche qui la creatività ha fatto tanto. E c'è una bellissima storia che vi vogliamo raccontare. Siamo alla residenza per anziani Le Lame di Agliana, in provincia di Pistoia, dove hanno fatto una cosa molto semplice: hanno messo un cartello davanti alla porta con questo messaggio: caro passante, ai nonni farebbe piacere ricevere un tuo messaggio di auguri e di speranza in questo momento difficile, per sentirsi meno soli. Lascia il tuo pensiero, lo leggeremo tutti insieme. In pochi giorni sono arrivati centinaia e centinaia di biglietti di auguri, e c'è con noi una nonnina che ha ricevuto uno di questi biglietti di auguri. È nonna Maria, ha 75 anni ed è una delle ospiti della residenza. Ciao nonna Maria, buon Natale intanto. Buon Natale a lei. Buon Natale. Tutto bene? Sei emozionata? Immagino adesso. Maria, in questo momento è un po' emozionata. Sì, sì, sì. Tu sei Silvia, l'animatrice? Sono Silvia, l'animatrice. Buongiorno a tutti. Ciao Silvia, grazie. Buon Natale anche a te. Immagino che sia una mattinata molto particolare, vero? Sì, è una mattinata particolare. Poi siamo stati. Siamo sull'onda di questa bella iniziativa, insomma, che ci ha colto di sorpresa. Siamo tutti molto emozionati da giorni. Abbiamo un lavoro per le prossime settimane di lettura di bigliettini, di pensieri, di lettere, insomma, vero Maria? Sì, tante. Maria, ma l'hai letta una di queste lettere? C'è una lettera che ti ha colpito particolarmente? Sì. Ce l'hai lì? Ci vuoi leggere qualche riga? Narrala, quello che ti ricordi di quel bambino, sì, che scriveva. C'è un bambino che ha scritto a Babbo Natale, gli ha detto che i nonni sono più buoni di lui, perché quando vedono un bambino sorridono e sono felici. che bello. Nonna Maria, tanti auguri di buone feste, speriamo che sia un anno migliore a te e a tutte le persone, appunto, che ne... queste settimane, in questi mesi hanno vissuto all'interno delle residenze per anziani. Ma questo augurio anche a tutti gli animatori, a tutto il personale che è al loro fianco e appunto sono diventati e sono la loro famiglia. Ciao nonna Maria, ciao Silvia, grazie. Grazie a voi. 800 24 00 24, il numero verde per poter partecipare oggi in diretta, parenti stretti, Radio 24. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. Continuiamo con la nostra playlist di brani musicali per accompagnarmi in questa ora di Parenti Stretti a Radio 24, dove cerchiamo di riavvicinare un po' la grande famiglia degli ascoltatori della nostra radio, dando la possibilità di fare gli auguri in diretta a chi quest'anno appunto non si può vedere, non si può abbracciare, non si può toccare con mano. Siamo con Alberto. Ciao Alberto, buon Natale. Ah no, Alberto è caduto, ma mi dicono che era in autobus tra la Svizzera, quindi cerchiamo di recuperarlo. Invece Luca, 11 anni, da Milano. Ciao Luca, buon Natale. Luca, ci sei? Buon Natale. Eccolo lì. Ciao Luca, come stai? Bene. Bene. Volevo fare gli auguri alla mia mamma, che oggi lavora, e poi ai miei nonni e miei zii, che sono in un'altra città, a Brescia. Io abito a Milano. E quindi non li hai potuti vedere, ma sono riusciti a farti arrivare lo stesso i regali? Sì, ci siamo visti in realtà il 23, che eravamo ancora gialli. Ah, ok, quindi avete fatto una pre-festa di Natale, insomma. Esatto. E com'è questa... insomma, tu sei già grandicello, quindi hai ricordi dei Natali passati. Come la stai vivendo questa mattinata un po' diversa dal solito? Allora, noi comunque ci siamo organizzati, abbiamo fatto qualcosa di carino, anche se eravamo soltanto la nostra famiglia, diciamo, più ristretta. Ok. Anche comunque in realtà pure l'anno scorso avevamo già fatto da soli per altre ragioni. Ok, quindi insomma siete è comunque un Natale che lo senti come un momento di festa, no? Sei con la tua famiglia, sì, sei esatto. Comunque contento. Ok, grazie davvero Luca per i tuoi auguri che rilanciamo appunto a tutta la tua famiglia. Ciao e buone feste. Buone feste. Ciao ciao ciao ciao. Allora continuiamo 800 24 00 24 con le vostre chiamate 349 238 6666, i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, li sto leggendo in diretta. Un grande augurio a chi di noi è lontano e compirà 101 anni nel 2021. Auguroni Side, sono gli auguri di Veronica. E poi arrivano tanti auguri anche dei miei compagni di banco, che in effetti è da un po' che non vedo, ma io lo ringrazio. Vediamo se sono parenti stretti e amici. Un grazie a Giuliano che e a tutta la mitica 5 quinta F, insomma un modo per sentirsi vicini. Da Milano Cristina, ciao Cristina, buona domenica, buon Natale. Ma perché continui a dire buona domenica? È un automatico, un automatismo. È un automatismo. Buona domenica. Buon Natale. Ciao Cristina, buon ciao. Natale a tutti. Io volevo fare due auguri, il primo speciale, il secondo specialissimo. Il primo speciale è a tutti voi di Radio 24, conduttori, autori, redattori, registi, tecnici del suono, centralinisti, receptionist, no, trucco e parrucco non l'avete. Trucco e parrucco non l'abbiamo, almeno credo, non so se qualcuno prima di andare in onda in radio. Ecco, a voi tutti perché mi fate tanta compagnia e soprattutto ogni volta che io sono in un altro posto e accendo Radio 24 è come se fossi a casa. E quindi siete un po'... Siamo un po' casa mia. Siamo casa tua, insomma, oggi l'abbiamo detto, no? Ci sentiamo parte di una grande famiglia, che è la famiglia degli ascoltatori, dove ci sei tu, dove ci sono io, dove ci sono tutte le persone che tu hai nominato. Quindi questo è il bello della radio, che fa davvero comunità, ed è bello anche sentirselo dire in una mattina come questa, dove le famiglie sono state un po' spezzate. Questo... Ma io non ho una grande famiglia, purtroppo siamo solo io, mio marito e mia madre. E l'augurio specialissimo va a lei, che non sentirà Radio 24. Ha avuto un ictus in una RSA e spero che le arrivi il pensiero della unica figlia che ha e che la faccia sorridere. Tutto qua. Cristina, un abbraccio davvero. Un abbraccio a tutti, tutti, trucco e parrucco anche. Anche a loro. Ciao Cristina, ciao, buon Natale, ciao ciao. 800 24 00 24, ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con Parenti Stretti a Radio 24. Parenti Stretti a Radio 24. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Eccoci qua ancora con Parenti Stretti, ancora qualche minuto per fare gli auguri in diretta. Chi volete, come volete, quando volete, 800 24 00 24, la famiglia degli ascoltatori di Radio 24. Andiamo a Roma da Domenico e Michela. Ciao Domenico, ciao Michela, buon Natale. Ciao ciao Fede, buon Natale anche a voi. Ciao, buon Natale. Allora voi insomma siete insieme, siete una coppia, siete... Chi siete? Noi siamo parenti stretti, più dei parenti stretti veri. Ah sì? Perché abbiamo vissuto insieme, poi non abbiamo più vissuto insieme, poi trascorriamo le feste insieme, poi facciamo le vacanze insieme, insomma un po' così, dipende dall'occasione, noi siamo insieme alla fine. Quindi siete amici ma lontani dai vostri parenti oggi? Esatto, sì, oggi io ho parenti a Torino, Io invece ho i parenti a Milano e abbiamo deciso di rimanere a Roma e di non spostarci, insomma. Sì, okay. Per salvaguardare innanzitutto i nostri genitori, ecco. L'abbiamo detto che è il regalo più bello di quest'anno, probabilmente. Domenico e Michela, a chi volete fare gli auguri, quindi? Allora, io invece vorrei fare gli auguri, così magari mi sente, facciamo anche una sorta di servizio pubblico in questo senso, al mio portiere di Roma, che sta trovando tutti i modi possibili per non consegnarmi pacchi in questo Natale. E allora, probabilmente gli starò un po' sulle scatoline, questo l'abbiamo capito, ma le sue scuse sono divertenti, tipo, ah, tu ti chiami Domenico? Ah, scusa, no, no, no, non lo sapevo, ho dato il pacco alla posta. Ah, ma tu abiti qui? Ah, scusa, ho dato il tuo pacco al tabacchino. Ecco, allora, se mi sente, spero di sì, auguri, tanti auguri, con affetto. Grazie davvero Domenico, grazie Michela, buon Natale appunto in amicizia e con lontani dai parenti, ma sento che insomma c'è allegria e questo ci piace. Ciao, grazie a voi, ciao, una ciao, buona giornata, tutto. Ciao, ciao. Sono evolute, come sono cambiate le tradizioni da 45 anni ad Agliate, con una frazione di Carate Brianza, siamo in provincia di Monza e Brianza, si tiene un tradizionale presepe vivente, così come succede veramente in tantissimi paesi, tantissimi borghi, tantissimi comuni italiani. Quest'anno non si può fare, ma loro si sono inventati appunto le presepe vivente via streaming. Andrà in onda il 26 dicembre alle 15 sul sito della manifestazione, che è presepeagliate.it. Anche questo è un modo per fare famiglia, per fare Natale, per mantenere vivi i riti. E con noi c'è San Giuseppe, direttamente dal presepe vivente. Ciao Francesco, benvenuto e buon Natale. Buon Natale anche a te, ciao! Allora, intanto è la prima volta che fai San Giuseppe? È la prima volta che faccio San Giuseppe, sono emozionatissimo, tutta la mia famiglia è emozionatissima, abbiamo avuto questo dono straordinario di un bambino il 5 di novembre, Samuele, e quindi con mia moglie e mio figlio saremo la Sacra Famiglia al grandissimo presepe di Agliate. Ah, ma quindi Samuele sarà il bambino Gesù proprio? Sì, il mio bambino è nato il 5 di novembre, è piccolissimo e con orgoglio lo porterò in una grotta naturale, perché la location è fantastica via Dagliate, c'è una grotta naturale dietro una chiesetta romanica del XII secolo e lì ci saremo io, mia moglie e il mio bambino Samuele, che abbiamo aspettato per un po' di anni. Finalmente è arrivato, ci ha fatto questa sorpresa e siamo contentissimi di poter rappresentare la Sacra Famiglia. Insomma, più parenti stretti di così era davvero impossibile. E il fatto di farlo via streaming, insomma, allora abbiamo deciso di farlo. È dura, però non abbiamo voluto fare e mantenere la scena, quantomeno la scena, perché normalmente sono 250 figuranti su più scene in tutto il paese, è bellissimo da vedere, è uno dei più grandi d'Italia, il presepe vivente di Agliate. Quest'anno purtroppo ci siamo limitati a fare solo la scena della grotta, quindi ci saranno il bue e l'asinello, ci saremo noi, ci saranno dei pastorelli, saremo una ventina in tutto. Nel rispetto delle norme riusciamo a mandare in diretta questa scena per una ventina di minuti, poi ci sarà il supporto del coro fantastico, stanno montando tutto insieme, ci sarà l'unica cosa in diretta, saremo appunto noi lì nella grotta, ci saranno i re magi che arriveranno. Tutto il resto sono scene montate con immagini degli anni scorsi, ci sarà il coro che farà delle canzoni meravigliose, è bellissimo, vi consiglio a tutti di andare domani alle 15 sul sito del presepealiate.it, come dicevi giustamente tu, perché è sempre bello rivedere la natività, insomma, ecco. Grazie davvero, buon Natale intanto a te e a tutta la tua famiglia e al nuovo arrivato Samuele. Ciao, grazie. Ciao. 800240024, ancora una manciata di minuti per i vostri auguri in diretta. Andiamo da Egle, siamo ad Alba. Ciao Egle, buon Natale. Sì, siamo ad Alba, ciao, buon Natale a tutti voi. Io sono una vostra fedelissima ascoltatrice e innanzitutto voglio ringraziarvi per la qualità delle vostre trasmissioni, che ogni volta sento qualcosa e imparo qualcosa. Grazie, grazie davvero da parte di tutta Radio 24. A chi vuoi fare gli auguri, Egle? Allora, io vorrei fare gli auguri a tutti gli operatori e gli ospiti di una comunità che contribuisco ad amministrare da ormai 30 anni, che ospita persone con le disabilità più varie. E per me sono parenti stretti, perché li voglio veramente bene, come loro ricambiano e ci fanno capire cosa sta scritto nelle scritture, vale a dire che se farai qualcosa per qualcuno che ha qualche bisogno maggiore del tuo, riceverai il centuplo qua giù e poi magari sull'eternità non mi sbilancio. Non sbilanciamoci, esatto. Non grazie davvero, grazie Egle per il tuo augurio che rilanciamo sicuramente. Ciao e buon Natale a te. Grazie a te, buon Natale. Ciao, ciao, ciao. Andiamo in Toscana ora, andiamo da Mario. Ciao Mario, buon Natale. Grazie altrettanto a voi. A chi vuoi fare gli auguri? Voglio fare gli auguri a dei parenti, amici e parenti molto stretti, che sono dovuti rientrare come molti dal Venezuela negli ultimi anni e che ora però Amedeo ed Anna, che sono i miei parenti, ci trovavamo sempre da loro con i figli, anche con i quattro figli che sono in giro per il mondo. E è una cosa molto importante e molto sentita, perché hanno un doppio dolore, quello di aver abbandonato là dove sono stati e vissuti per una vita e poi di non poter ritrovare quei figlioli, uno meco che sta a Dubai, e Salvi che sta in Venezuela, un po' a Miami, e normalmente l'occasione del Natale era quella per rivederci tutti insieme. E invece quest'anno, questo giro del mondo, possiamo farlo solo così, con i nostri auguri reali, ma appunto in una vicinanza virtuale. Grazie davvero Mario, ciao e buon Natale a te, ciao, e a tutta, grazie, la tua famiglia. Ciao. Andiamo a Bologna ora, andiamo da Renata. Ciao Renata, buon Natale. Ciao, buon Natale a te. Grazie. Allora, volevo augurare buon Natale a tutti i vostri conduttori radiofonici, che sono la mia famiglia tutti i giorni. Che bello. Grazie, grazie. E non potevo non ricordarli avendo avuto questa possibilità. Ringrazio tutti, sono tutti bravissimi. Per me l'ultimo mi rimane nel cuore sempre Nicoletti, perché lui fa delle trasmissioni meravigliose e intelligenti. Glielo diremo, grazie davvero Renata. Diteglielo, per certo, carità, auguri infiniti, auguri ciao, anche ciao, a voi, ciao, auguri. Ciao. Abbiamo veramente pochi secondi per andare a Comoda, Claudia, ciao Claudia, buon Natale. Ehi là. Ciao a te. Ciao. E niente, volevo fare gli auguri a tutta la radio, perché ci tenete compagnia e con l'intrattenimento e l'informazione da tanti anni, e anche un po' alle ragazze che hanno lavorato oggi al telefono, anche se è Natale. Grazie davvero, grazie Claudia, ciao e buone feste, buon Natale a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. E io la ringrazio, tutta la squadra di Radio 24 che oggi ha lavorato in questa diretta. Peter Bescapè alla parte tecnica, Paola Greco in assistenza, che appunto ha preso tutte le vostre telefonate. Un grazie a Luigi Speciale per la selezione musicale, un grazie a tutti i tecnici, grazie alla redazione del GR che anche oggi è qui, come sempre, per informarvi puntualmente. Questa è la famiglia di Radio 24, questo è stato Parenti Stretti a Radio 24, ancora buon Natale da Federico Taddia. Ciao!